volevi, che cosa voleva dir l'amore, cosa voleva dir l'amore per te, se sei scappata e io ti ho rincorsa, ma per cosa? Io ti ho rincorsa, ma per poco. Che cosa volevo? Che cosa voleva dir l'amore? Cosa voleva dir l'amore per me, se sono scappato e tu mi hai rincorso, ma per poco? Tu mi hai rincorso, ma per cosa? Che cosa volevo? Che cosa voleva dir l'amore? Cosa? Cosa? Che cosa? Che cosa speravo? Cosa? Dimmi che cosa. Cosa speravo? Addio.